un'altra dove anche gli altri mi puoi fare riempire la gola. Non cambia nulla, cioè quello lì di farmacia ti costa una vaca di lina, gli altri i Colgate, quelli lì costano di meno perché li vendono anche nei supermercati. Ma questo io da Michelangelo, questo prendo sempre anche per la nicotina, lo sai come ti fa la bocca proprio, bella ragazzi, ti pulisce anche bene e ti disinfetta soprattutto. E anni che lo usi io, ti assicuro che non ha niente a che fare con gli altri, Oh, questo qua, il tatu verde, io lo uso sempre. Ti dico che, allora, una volta ho comprato un flacone da supermercato, non me la metto in margherita, ma non era come te dici, ciao. E quello è forte, è molto concentrato, sì. L'ho usato anch'io parecchie volte per quando mi si erano le gengive e cose varie. Solitamente io, dopo che l'avvenenti, lo faccio, diciamo, con l'utile sempre. Io denti ho poco adesso, ma comunque lo faccio per le gengive. Perché appunto mangio con le gengive e quindi ho necessità di lisciarmi, capito? Perché sennò le gengive mi si alterano e quindi uso quello lì. Che se non lo uso per 3 giorni in seguito, dopo mi si infiamma. Lo so. Perché le gengive non sono fatte per masticare, dovresti metterti lì. Anch'io ne ho perso parecchi litri, nel senso che ne ho perso da una parte 4, ma mi ho fatto la parecchia. Ma infatti io, siccome sono così, quindi le gengive si infiammano, e allora devi aspettare, capito? In continuazione. E se no, voglio via, ti lascio un po' come a taglia. Lo so, si arrossa non fa mai male, lo so, si gonfia, ti provoca carico cattivo, qualcosa, lo so quello che succede, perché io ho avuto la piorrea, quindi lo so cosa vuol dire. Il tatu verde comunque è per me è quello che è miracoloso. Tu sapevi medicinale, quello che ho sentato io. Daniele ne sa qualche cosa, fatelo dire da lui. Me lo so, ma se non c'ho febbre ci vado, se c'ho febbre non ci vado, quello è logico, se c'ho febbre non mi metto a fare lino. Ma anche se vai così copriti bene la gola, perché se no magari ti pizzichi già addorno e ti fai uno la febbre, devi stare altri 3 giorni a casa, non un giorno. Domani mattina alle 7 esco in maglietta, se te le hai. Avete valutato in due? Collo. Stai buttando con la martingala, te le metti per fa. E cos'è a collo? Cos'è che c'è la brasa? Ecco a collo. A collo, a collo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Aiuto al 30, va. Sì. Oh bu. Ti fa passare poi. Ola. Ola. Siamo rimanere qua, ma il rumore non ce n'è qua. Calare, parlare, per pacissimo. Stavo la fisica dove era ora, così è, fa vedere una fatica. Da ieri sera. Mi sembra che mi si sta anche, se continuo a parlare, si sta spassando sempre di più. Non scappa. E sta fisica dove è? Dai, piccino. Insomma, non mi manca mai, là. È una minestrina a casa, te la puoi mangiare, per papà. Tu ci hai pizzicato le secche, indovina cosa mi stanno facendo? Minestra di dal. No, no, di pollo, calda calda, provo più che altro. Infatti, fa lo stesso effetto, là. Perché roba calda. Bello caldo adesso, me lo prendo, tra un po' è pronto, è l'unica cosa che posso prendere, calda. Latte e tè, il tè già lo posso bere, ma adesso a quest'ora non mi voglio. Infatti, il tè già non bevi altri, tu? No, non ci ho mai preso, mi piace più la camomilla del tè. Non so, Natali, come ci oggi mia moglie, so che avrei detto che ci sarebbe voluta una bella brasiliana calda calda. La manco di la vista busata ancora, ti avevi fatto un baccaro caro. E me? No, mi avrei fatto visitare la gola. No, vai, perché Pippina, tu ti devi essere nei canali di mezzo. Agita gli occhi, c'è Antonio che mi fa una domanda. Ma quanto saltando di canale in canale? Stiamo saltando? E io ho capito a sbaccarlo qui. No! A chi noi non stiamo rimandando il burismo, di vita Antonio, che è pizzina? Oh, non ci mancherà io. Stasera Antonio stava usando il pisello, Ma l'ha intinto nella caldarella il pisello? Eia. Pagappa. Il pinzello. Sì, intingere il pinzello nella caldarella. Mi ha risato quell'ecco. Però devi stare attento, se no ti viene il granco se lo usi troppo il pinzello. Ti viene il granco, ti viene. E ci va. Modo. Ecco qua. E ci va, andiamo a fare una cosettina, no? Che sto sistemando. Ci sentiamo dopo, va. Io. Vai a lavorare, vai. Produci. E se no se vieni qua ti faccio vedere il pesce o l'uccello, mi. Cosa c'è, pappagalli, no? Ehi, due coppie, ne. E poi c'è anche il pesce. Il pesce non l'ho mai visto. E comunque per Paolo ce n'è uno di Coccolita che è addomesticata, la prende in mano, gli sta sulla mano. Le mette il dito e se ne sta sotto al dito. E vai, Pierpa. Io ce ne ho due coppie, ne ho, di Coccolita. Poi, se vuoi farla accoppiare, mi portale qua, che te le accoppa subito. Ma cosa coppa subito? Cazzo, ma giù due matti, sì, guarda, sorprendenti. Ma quello di Perpalo, tutti quelli che sono entrati sono morti, è territoriale al massimo. Quelli che li ho messi li ha sempre ammazzati, non sopporta altri vicino a sé. Ma anche le femmine? Femmine e maschi, li ammazza sempre. Il cavolo, dove è malo davvero? E con i suoi simili diventa cattivo, li ammazza a colpi di becco. Vabbè. Infatti, io gli mettevo le femmine. un'altra coppia faceva le uova, distruggeva le uova e ammazzava le femmine. Via Gavazzaneggi, aveva continuato l'allevamento. Mi non si era più Gavazzaneggi, oppure l'ha presa, e tra l'altro l'ha premessa, non l'ha cambiata solo a lui, pizzina. Non è giusto che ti faccia ammazzare tutte le coppie, le cose, buffonendosi. Infatti sono separate le due coppie che ho io, non sa chi sa fare, hanno i due maschi, no? Allora giubiliamo, un maschio e una femmina in una gabbia e un maschio e una femmina nell'altra. E tutte e due vanno in un nido, tutte e due le gabbie, quindi se fanno le uova non c'è problema. E questo è separato. È separato, ma non lo faccio fuori, perché è ammaestrato, è troppo d'oro. No, non vuole nessun altro con sé, capito? È stato allevato in solitudine e vive in solitudine. Qualsiasi altra cosa che gli metti, lui la prende e la uccide. Però è buono, gioca anche e tutto quanto, capito? È per quello che mi dispiace. Ma come hai fatto a maestrarlo? Come ti è andato a casa, c'è i bugi, i cazzo, mi avevi pulitato, la roba di voce, ma ne cultura. Per da piccolino, quando sono piccolini, piccolini, devi iniziare a imparare la tua mano, a saltare su di te, insomma a farti conoscere, no? Dargli affetto, lui si fa anche accarezzare sotto il becco, insomma è ammaestrato, capito? E poi gli apri la gabbia, quando la gabbia è chiusa gli apri la gabbia, con la mano lontana lui se ne va, gli ci vai nella gabbia e lui se ne va da solo, capito? E mi dispiace, fanno fuori, ormai poi è già 8 anni che ce l'ho. No, fanno fuori no, magari lo lasci separato. Ehi, già ce l'ho avuto separato, ma io lo provavo sempre a vedere se si affezionava a altri uccelli, e invece no, no, non c'è stato verso, perché sin da piccolino è sempre stato un poco, capito, di solitudine. Ehi, ehi, sta lì, ma se fai la voliera li devi mettere tutti insieme. Ma già si conoscono, già si vedono, si stavano richiamando stamattina. Tutte e due le coppie, già le metto assieme, però temo che i due maschi si azzuffino. Ma sai che questo maschio che sta pagando? Sbagliando, se fai la voliera devi farla anche separata, perché i maschi devi togliere, perché se ci sono, soprattutto se ci sono più maschi e le femmine hanno le uova, il maschio che incara eppure no, quando vai a comprarli sono tutti insieme, maschio e femmine. Quando vai a comprarli, ma quando stanno creando, ecco, vogliono separati dai maschi, se no se soprattutto se più di uno, se in gara li ammazzano, ma niente da fare, schiaccia il uomo a me, capito? E poi picchia anche la femmina quando sta combando. E Rita non ce l'ha in voliera. E anche Rita ce l'ha nella voliera grande, cazzo, e quello sto pensando io. E i maschi basta tenerli in gabbia, allora, separati. E vi rubano i soli, quando sei sicuro che a Giacobbande ha fatto di figliuli. Capito? Lontano dai figli, giustamente. Se no il maschio li ammazza. Sempre separate, è sbagliato lasciarli da solo. Io credo, qua ti sto dicendo io che li ho allevati, non lo so, ma non c'è verso, ti succede un massacro. Paghissimo io, già, addirittura c'è una gabbia che puoi separare, che c'è la rete che separa, che la fa in due praticamente, nel senso, tanto bandi in chissà gabbia si buono i due maschi e li si pareggi e sono lontani uno dall'altro, addirittura pure si può separare. Meno male che ce l'ho quella gabbia. E poi gli deve mettere la cassettina, capito? La cassettina di cova gli deve mettere. tutte e due il nido gli ho messo. Beh, pappagalli entrano nella cassetta, ce l'ho giù per poi, dopo è quella cassetta col buco là. E non ce l'ho, ne ho due. Ma tu hai un nido, vabbè, il nido è anche quello dei canarini che si mette in quello del ferro. Ma allora non bisogna aprire quella casettina lì perché se ne entrano dentro. Ehi, quello in legno c'ho, i due nidi, addirittura si aprono da sopra pure. Non sono in ferro, sono in legno quelli che c'ho io col buco. Come quelli che c'avevo io. A Talieri ho avuto i pappagalli, ho avuto pappagalli, canarini, poi mia moglie me l'ha fatto, me l'ha regalato, e giusto a misura da reso pieno di aver regalato, io non c'ero, sono tornato a casa e l'ho trovato più riuscito. E se di voi quando guardi nei migliori di dopo lui con una doppia. Io cosa voglio? Io per me già vi voglio che mi piacciono gli animali, ma mia moglie li sporca un discagliolo in terra, che qua, che là, Ma no, se lo, la fatica te le deve cambiare quasi ogni giorno, capito? Se ti dimentichi un giorno, l'altro giorno devi cambiare, devi pulire le cose sotto, se no naturalmente inizia poi a sporcare. E io la sabbia, come facevo io, ne mettevo la sabbia, quella dei gatti, a voglia che assorbe. No, c'è anche la sabbia di loro, proprio dei pappagalli, se uno vuole gli mette quella lì. E se la mangiavano anche, tra l'altro, si mangiavano i pigli, per farsi le uova dure, mangiavano quelli. Ma io lo sai come li trattavo, gli davo biscotti, gli davo il pastoncino ai canarini, la scagliola, andavo a cercare apposta la scagliola fresca, andavo a cogliere il rosello sotto, lì, dove c'è l'acqua, e così l'acqua e così, cercavo la scagliola fresca, gli davo verdura, frutta, di tutto. Adesso ti dico una cosa, per capire quanto è trucido questo qua, questo che c'ho io, di solito agli occhiali così, a qualsiasi occhiali sia il pane, questo pane duro, non trova mica, duro freco, lì su molto. No, ma quindi io non gli davo pane, gli davo le uova sode. Il giallo delle uova sole schiacciato e messo, gli mettevo i biscotti in mezzo tutto quanto, facevo una specie di pastoncino, un po' di acqua e loro lo mangiavano. Per mangiare entrava il maschio scaldato. Lo sai, questo qua d'inverno non fa, la metà, non serve l'acqua. Si prende l'acqua col becco, no? Col becco dal coso, la prende e si butta addosso. E dove si butta tutto quanto le mani. Beh, quello lì è il caldo, lo fanno tutti gli uccelli, anche i canarini. Ma io ne ho avuti tutti i colori, ho avuto cardellini, ho avuto canarini, ho avuto verdellini, ho avuto verdoni, guarda, ne ho avuto tutti i pappagalli, coccolitti, di tutto. Crack, crack, crack, crack, crack. Hey, yeah. è quella di Gabus Battagaglio. Vabbè, un attimo che devo fare cosa qua, riprendo fra un po', rimanete qua. Io già l'ho seguito per un bel pezzo, uno di quelli grandi grandi fermati, di quelli che fanno, di quelli enormi, proprio quelli grandi che stanno sul piedistallo. L'ho visto volando vicino a casa, avesse scappato da qualche posto, tra giù mi seguo, si è calato su un albero, e aggiungendo che tu varrà giù al ramo per farlo spaventare, è volato da lì, è caduto su una macchina, poi che ti è preso il volato, non siamo fatti a pigliarla perché sei sul tetto di una casa. Ho detto che una volta quando ero un ragazzo ne ho perseguito uno di pappagallo, ma non di quelli lì, di quelli enormi, quelli che parlano, che sono rossi, verdi, gialli, ce li presenti. Deve essere scappato da qualche casa. È passato a Sacro Cuore lì. Poi c'erano gli alberi dove c'è l'Avisi lì. È andato sopra per gli olivetti lì. Ho tirato un sasso e ho colpito il ramo per farlo scappare. È scappato e si è calato su una macchina. Ho detto, non mi pigliato. Poi avevo paura che mi beccasse. Sono andato vicino e poi è rivolato. È andato sopra un tetto, non sono fatta più a prendere. Ma c'è da che si chiamava. Qua c'è una tu, soltanto non mi capi così piccoli e tenuti. Non gabbie piccole, gabbie per allevamenti. Io avevo la gabbia come quella che è Donatalino, quella con separi per separarli. Ne avevo due di gabbie, erano abbastanza grandi, però molto più grandi della tua. E li mettevo sopra un mobile, di modo che loro non avessero disturbi quando covavano e cose del genere. E poi li vendevo i canarini, anche ne ho venduto sia a gente che conoscevo, sia anche al coso lo zoo dove li avevo comprati. Poi ho avuto anche le cave peruviane, ho avuto i criceti, ho avuto pochi. E le cave peruviane lo sai che nascono, che come nascono cominciano a mangiare quelli di tiro. Già io adesso era per mancanza di posto. Facciamo il progetto, una gabbia, no? Sai cosa le voglio fare? Le voglio costruire e mettere anche un alberello, una cosa carina, con un alberello, la voglio fare proprio bene. Adesso però che ho un po' di tempo e che me ne metto, inizio di nuovo a farla. Ti metti un bonsai. E un alberello, ma è una cosa proprio ben fatta, con tutte le cose. Le maschettine tutte ben messe, capito? Una cosa proprio bella. Tipo voliera in piccolo, là. La voliera si fa così, si mette un albero al centro, solitamente così, Poi ognuno la fa come vuole, di solito io l'ho viste con un albero al centro, anche un albero non fresco, non vivo, dai, secco. E poi ci sono gli uccelli che vanno sopra, io ne ho visto una di diamantini che non ha fame. Non ci credete, che sia tanto piccola questa che voglio fare. È un metro di altezza in pratica, no, è 90 di larghezza, non è mica tanto piccola. Piccola, ma solo per quello? Solo per lui. Tutto per lui. E comunque la voliera stava molto meglio. Io avevo questo amico che aveva praticamente una tettoia e poi c'aveva la voliera all'interno. I lati erano praticamente liberi, sempre fatti da una rete. C'aveva la voliera all'interno e c'aveva i diamantini. Era amante dei diamantini, ma sai quanto erano bimbi, con per qua arancione, piccoli piccoli, tutti colorati, quindi I colori mi piacciono almeno, sai, sono bellini. Sono tipo colibri così, sono piccolini così, i diamantini, li conosci i diamantini come sono? Guarda, ho visto in qualche cosa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, perché campano meglio nelle cose, nelle gabbie. Io colibri in verità non ne ho mai visto, comunque. I diamantini sì, i diamantini sono piccoli, non so se sono tutti a puntini, col becco arancione, tutti colorati, sono molto belli. Comunque la cosa che mi piace più è l'indiano a me che parla, quello lì è allucinato. Lo so, però cazzo ti fa un casino, fa troppo casino, capito? Sarebbe piaciuto anche a me, da caccia dei fischi allucinanti. Lo so. Infatti questa commessa ce l'ha per fare in campagna. E sai cosa diceva? Quando arrivava l'ospite si metteva a fare lo scemo, ha detto. Lo lasciava tutto il giorno fuori, quando c'era bella giornata, no? C'aveva la soga che non la prendeva fuori, sotto al tetto, e lo lasciava così, all'aria. E quella notte lo metteva dentro. Detto, quando c'erano ospiti, sentiva il marito, no, che diceva poni a B. Come arrivavano gli ospiti, cominciava poni a B, poni a B, poni a B. Anna chiamava a questa commessa, Anna, Andrea, e chiamava quando tutti ridevano, allora, più vedeva ridere più continuava a fare lo scemo, lei diceva poche di cose, faceva la porta che cingolava, tutto qua, e ha detto che è morto da poco, dice che Andrea il marito si muso pure a Biniga, è muso. Quando mettevo l'allarme la macchina faceva wii wii e poi basta. Quando riaprivo di nuovo wii wii, quando ritornavo mi faceva wii wii prima di schiacciare il pulsante. Io mi guardavo fatto, ma come cacchio è possibile, non ho schiacciato il pulsante, stavo lungavo tutto qua. Un giorno si è affacciato a questa signora, lo sa chi è che la fa impazzire, questo delinquente mi ha fatto vedere il merlinviato. Sono tremendi. Ma uguale, ti fa nessuno, è uguale, veramente, guarda, tutto quello che sentono, da quelli che vanno via, quello di mia madre faceva anche, mi avevano fatto sentire, col telefonino, il coso della, come si chiama, dell'esercito di lì, la richiata, no? Altro di avanti, precisa, la tromba mi precisa. Quello di Edoardo non te lo ricordi? Ehi, c'era quello di Edoardo, cazzo me lo ricordo, quello era tremendo, lo stesso. Aspetta, come si chiama? Si chiamava Alessio. Come ti ripeteva tutto lo stesso uguale, come si dice, mi se la tocco la testa, cadenzia, c'è tutta la trompetta sudata. Ehi, e poi ti puliva le unghie, e poi quando dice come ti chiami Alessio, come? Alessio, si incantava. Sono tremendi, ma quando fischiano, per loro, ti mangio direttamente e ti rimasti. Te ne ricordi quando è venuto Giancarlo quella volta che ecco, maresciallo? Ehi, mangio, mangio. Poi gli ha detto una parolaccia, e Giancarlo si è cantato, questi siete voi che l'avete segnato. E beh, se glielo insegno, fa, se no no, oppure se ne sentemi. Ma è su chi è su di miticheccia, eh. Non ripeti più taccio, ma giudizi. Io facevo quella musica. Quella musica lì faceva. Vino d'Italia. E quello che faceva la trombetta così, fischiando, non ne ho sentito anche un altro. Ma c'è una scatola, faceva fortissimo, forte, un bel forte. Ma la razza di Ugo che c'hanno questi, il coso, il pappagallo, non è così, eh. Sì, se fischia, è forte lo stesso, però c'ha un altro modo, capito, non è esattamente come il merlo. Sì, il pappagallo ripete e basta quello che gli dicono, invece il merlo ragiona proprio. Io mi ricordo che questa amica mi aveva detto che ne aveva uno piccolino, l'aveva comprato 350 mila lire da pagare. Era ancora spellacchiato quando l'ha preso. E ogni notte li metteva un telo per addormentarsi. Una mattina, e mi diceva la mattina buongiorno quando gli alzava il telo. Una mattina è andato, gli ha alzato il telo e gli ha detto buongiorno, lui però. E invece è rimasta secca, invece dal giorno ha cominciato a registrare parole, a farle ascoltare un meno, se quanto parlava, ui, tutto diceva, faceva anche il bacio, così faceva, dammi un bacio. Mi piace, no? Ma se io, magari essendo in un altro posto, anche in campagna me l'avrei preso, perché quando ti rompe le mani, lo prende e ci fuori. Ma dentro casa non fa, perché è troppo casino. Cazzo, se no mia madre, uiuia. E se un buon interrato, Badisi, buoni, la gente a farlo fischiare, perché anch'io mi diverto, ce n'è uno che quando suonava il campanello di un palazzo diceva sarga, e io non capivo, dicevo, capo, ma non esce da qua il suo. A un certo punto gli ho chiesto a questa signora, ma tu mi è quel barbariano che c'è di fronte, come sente il postino che suona, no? Fa sia il fischio del postino, che quando suona gli dice salga, deve essere che sente il citofono che risponde, e allora è imparato anche lui, no? E allora gli facevo, e lui rispondeva, e proprio ragionano, capito, no? Continuano la canzone, tutto gatto. Che bestiali che sono, troppo bestiali, ma mi piacciono troppo. E comunque, se... Poi avevo imparato il rumore dello sportello, quando arrivavo col furgone lo spegnevo, aprivo lo sportello e sentivo prima lui che faceva... Aspetta un attimo, ma è successo un guai. Che è successo? Ah, niente, niente. Si è spaccato il cristallo. Nella cucina vecchia stavo buttando. Ah, vabbè. Quello poco male. molto uguale. Quella già è vecchia, ho sentito. Ma perché invece che buttarla non la per non vedere tutto a porto bello? Ma lo so già, che era vecchio ormai, che cosa? C'aveva forno che non funzionava più, e poi c'era anche un fornello che non funzionava più. E beh, il fornello lo sa aggiustare. Ehi, devo raccontare, tanto ormai è cambiato, ce ne fai, cosa ne faccio? Ma... infatti, no, io i mobili, per dire, quando ho cambiato la sala, l'altra me l'ha presa molto bene, non mi ha dato la sala, mi ha dato 2 milioni, ma me l'ha data, l'hanno comprata subito, 2 milioni, e me l'ho venduta. Così così magari sì, ma la cosa era molto bella, c'era più di 12 anni, quindi. Io la sala l'ho cambiata che non era vecchia, era nuova, nuova, no, solo che allora si usava non nere quando mi sono sposato io, e nera mia moglie non gli piaceva più perché tutta la polvere andava sopra, poi spolverava e ritornava la polvere, un po' di minuti. Ma ha fatto un gabbacca così la candela giù giambata. Ha fatto bene. Cos'è questo nero? Siamo più a epoca di nero, no? Lo so. Intanto mi è costata una marca di subito, tutto è noce, però mi è costato. Ehi, a Fottedini, il lasso, come ti dolore, andare a freni. Eccolo, già bene. Diciamo che adesso il dolore è tolto. Ascolta, io vado a bermi questo brodino qua, se no non ci riesco più. Ci risentiamo fra un po', Sì, sì, sì. O devi ancora cenare? No, devo cenare, non me l'ho chiamato, ma devo cenare. Babbo, dai, vado anche io a mangiare, poi magari ci sentiamo più tardi, ma su un 10, no? No, siamo vabbè, vado sul 10 allora, dai. Ci troviamo sul 10. Buona cena. Grazie Antonio, ciao ciao. Vabbè dai, ciao ciao, che è da parte mia, dai. E vi stavo ascoltando, ci sentiamo dopo, dai.